andati in vantaggio anche meritatamente, perché era inevitabile che come una spugna si pone l'acqua. Hai visto come ha esultato Antonio Conte? Poi però finisci questa metafora: come una spugna si pone l'acqua, e che succede? Che alla fine la spugna perde anche acqua, e così è successo alla difesa del Mantua. Grande trap. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ora Juventus è in avanti con il traversone, Castanos libera l'avversario e mette dentro una palla che gli è stata ben appoggiata da Maček, e Juventus in vantaggio. Grande conclusione, poi il gol di Lagumina dopo la conclusione di Costantino, che ha messo in difficoltà Del Favero, e Lagumina, sempre lui, va a segnare il gol del pareggio del Palermo al 28esimo. Calcio di rigore, la trasformazione di Badalà, e Juventus che torna in vantaggio dunque al 34esimo sul calcio di rigore. Calcio di rigore, Lagumina, la palla nell'angolo, e al 37esimo è 2-2. Di Massimo, la rincorsa breve, la battuta, la palla nell'angolo, e Juventus in vantaggio, 36esimo del secondo tempo, 3-2. Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Due giorni di fila qui con me. Incredibile, eh? Sono commosso. Incredibile. Allora, cosa hai fatto tu quando Fabio Grosso sognò quel famoso rigore in Germania? Ero a Parigi e ho goduto come un riccio. Io ho fatto... la mia è stata la finale mondiale più triste. Non c'è italiano che abbia vissuto una finale mondiale più triste di quella, perché stavo da solo, unico italiano, in questo meraviglioso attico di Parigi, dove poi facciamo i collegamenti su questa terrazza, con tipo 7-8 francesi, ma ero da solo, ero proprio da solo, e quindi niente, stavo là, visto la partita, ho goduto, però non ho avuto, diciamo, volevo essere, che ne so, a Ponza sulla spiaggia oppure a Berlino eccetera, però sai, il lavoro, devo dire la goduria di aver festeggiato in terra francese. Adesso ha vinto, è tornato a vincere come allenatore il trofeo di Viareggio, cioè il più importante, il campionato del mondo giovanile. Buongiorno Fabio, ciao. Buongiorno a voi, ciao a tutti. Come stai? Molto bene, grazie, direi. Come va? Quanti messaggi hai ricevuto da ieri? Ma ne ho ricevuti diversi. Il mio l'ho ricevuto, perché mi hai anche risposto. Mi raccomando. Bravo, ci siamo messaggiati per altri motivi. Mi raccomando. Per congratularci, sì, sì. Beh, altri motivi, adesso sembra che ci abbiamo dei giri strani. Tiki-taka. No, niente di compromettente, però ne riparleremo a tempi debiti. Senti, è più forte la Juve del presente o quella del futuro? Non scherziamo assolutamente, noi facciamo parte di una società che ha una prima squadra fortissima, e sappiamo che il nostro compito nel settore giovanile è quello di provare a costruire dei ragazzi che potranno diventare dei giocatori forti nel futuro. Sicuramente diventare giocatori da Juve non è facile, però il nostro obiettivo è quello di provarci, e insomma da un po' di tempo ci siamo messi con questo impegno, sapendo anche che ovviamente costruiamo dei percorsi per dei ragazzi, per vederli un giorno calcare palcoscenici importanti, ma sappiamo anche che quando indossi questa maglia e ti capita di poter portare a casa qualcosa, è giusto che tu lo riesca a fare. E poi puoi portare a casa anche la Coppa Italia, perché c'è la finale con l'Inter il 7 e il 13. Pensa che Capello va ancora fierissimo della Coppa Italia che vinse con la primavera del Milan. Tu puoi fare il doublete. Sono delle belle soddisfazioni, senza mai perdere di vista l'obiettivo principale che ho detto prima. Sicuramente fa piacere quando riesci a condividere con dei ragazzi tutto il loro entusiasmo, e quindi noi abbiamo le possibilità per poter finire bene questa stagione, sappiamo che abbiamo le qualità per poter continuare a fare bene e cercheremo giorno dopo giorno di allenarci per provare a fare il massimo. Senti, quanto contano i successi tipo il Viareggio, le coppe per un allenatore delle giovanili? Nel senso che poi lì immagino che certamente vincere sia sempre particolarmente piacevole, però c'è anche una prospettiva più di lungo termine, no? Cioè, poi alla fine voi sarete valutati, siete valutati sul numero di ragazzi che riuscite, di grande livello che riuscite a costruire. È così? Quanto si riesce in certi momenti a prescindere dall'ansia del risultato subito? Ma non me lo sono mai chiesto, perché fortunatamente per il momento sono tra virgolette ancora vergine di questo, quindi vivo questa mia esperienza con un entusiasmo travolgente. Ringrazio sempre la società che mi ha dato questa grandissima opportunità, perché è una grandissima opportunità e provo a sfruttarla quotidianamente sapendo qual è l'obiettivo principale. Quindi l'obiettivo principale non è quello di provare a vincere per avere notorietà, perché per il momento non è quello, ma è provare a fare un percorso importante per crescere più ragazzi possibili. Ma tu da grande, perché quello che vogliono fare loro da grandi lo sappiamo, tu che vuoi fare da grande? Cioè da grande, quando uno inizia a fare una cosa con tanta passione e tanta voglia, sicuramente cerca di farla al meglio nel futuro, però ovviamente per poterla fare bene nel futuro bisogna pensare tanto al presente. Il mio presente è provare a fare con questi ragazzi il meglio possibile. Ma pensi di più a un percorso all'Alberto De Rossi, che è uno che ha sempre resistito a ogni tentazione di carriera con i grandi, perché probabilmente si diverte di più a lavorare con i giovani, oppure la consideri una tappa fra 2 anni, 3 anni, ma 5 anni? Io non ho grandi programmi, so però che sicuramente mi piacerà provare a fare quello che sto facendo adesso e confrontarmi, insomma, nei livelli, certo, che mi competeranno. Però la cosa certa è che in questo momento, cioè in cui sono nel settore giovanile con tanti ragazzi, non lo sto facendo per creare un mio percorso, ma per creare insieme a loro un percorso nostro comune che può farci crescere a tutti e può farci fare quello che credo sia giusto fare nel settore giovanile, migliorare il più possibile. Senti Fabio, io credo che la storia di Alessio Di Massimo, che ha segnato il gol della vittoria al Viareggio, sia emblematica. Ha giocato in promozione, in eccellenza, l'avete preso dalla Serie D. Io continuo a pensare che le cosiddette squadre B, per far giocare questi ragazzi con i grandi, con i seniores, mettiamola così, sia un passo quasi obbligato, sarebbe un passo decisivo. Ma concordo pienamente, faccio parte di una società che ha lo stesso pensiero, quindi ovviamente non è che ci si sveglia la mattina e si può cambiare il calcio in base all'idea di una o due società. Bisogna trovare degli accordi e mi auguro che li trovino il prima possibile, perché da quando ho iniziato questo percorso che sono a contatto con questi ragazzi riconosco a tanti di questi ragazzi delle qualità enormi e nel tempo in percentuale non ne vengono fuori quanti dovrebbero venirne fuori, quindi c'è un pezzo che manca nel loro percorso e questo pezzo, ripeto, faccio parte di una società che vuole colmarlo perché sa che ha a disposizione tanta tanta qualità e non vorrebbe disperderla. Guarda, io e Pierluigi anche siamo dell'idea, cioè non facciamo grandi distinzioni tra italiani, stranieri, eccetera, facciamo distinzione tra quelli bravi, quelli meno bravi. Io ho un messaggio: la Juve che vince il Viareggio con 8 stranieri non dà fastidio al maestro di calcio Sacchi. Qual è la politica che secondo te deve seguire un settore giovanile? Quella di creare bravi giocatori, punto, no? Beh, credo che non è per controbatterlo, per creare un dibattito, però non è stato molto informato, perché la Juve ha vinto il Viareggio con tanti stranieri, però la Juve aveva 2 giocatori in nazionale, un portiere in prima squadra, altri 2 italiani molto forti, infortunati, e aveva tanti ragazzi molto bravi italiani che per un verso o per l'altro non hanno potuto partecipare al Viareggio. Quindi è stata una nostra grande voglia quella di poter fare il Viareggio per rendere partecipe tutto il gruppo, perché insomma abbiamo un gruppo di grande qualità ma che poteva essere impegnato in tutti i suoi interpreti e durante l'anno non è stato possibile, quindi abbiamo mixato tante risorse e nonostante il fatto che mancassero, diciamo, diversi giocatori importanti, aggiungo italiani, siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Grazie Fabio. Grazie a voi. A presto. Ciao, in bocca al lupo. Diciamo che non è che sa chi aveva detto questa cosa. Perché magari poteva nascere un po' di confusione. L'ascoltatore che ha fatto questa maliziosa ricostruzione. Sa chi faceva la famosa. Il messaggio completo è: ma la Juve che vince Viareggio con otto stranieri non dà fastidio al maestro di calcio? Sa chi l'anno scorso ha rotto le scatole tutto l'anno per i sei stranieri dell'Inter? Lo scrive Roberto, chiaramente. Sì. No, ma quella valutazione di Sacchi che sappiamo che portò anche molte polemiche perché venne vista come una cosa diciamo razzista, in realtà secondo me non lo era, era semplicemente il discorso della tutela dei giocatori della nazionale. Poi sappiamo anche che il confine della nazionalità e del passaporto della squadra di oggi è molto labile, no? Perché ormai siamo in una società multietnica, di integrazione, in certi momenti più facile, in certi momenti più complessa, ma comunque questa integrazione c'è nei fatti, quindi quello che conta semmai è il numero di giocatori eleggibili per la nostra nazionale. Poi l'origine DNA o il pedigree o le 10 generazioni prima, ma chi se ne frega, insomma. Traffico, tu per esempio sei subito. Pavese, Doc? Di quante generazioni? No, di nessuno lo so. Di nessuna, beh, sì, ma siamo melting pot, ragazzi, bastardi, bastardi. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Tutti convocati. In tutte le squadre che hanno fatto anche poi dei risultati importanti c'è sempre stato un blocco Juventus. Davanti ci sono dei giocatori interessanti, dei giocatori che hanno dimostrato come Pelé, come Eder, come lo stesso Zazà, o Zazza, insomma come si dice. Poi c'è Insigne, poi c'è questi giovani di Bernardeschi. Lasciamoli fare, lasciamoli prepararsi a questo europeo, vedrete che faranno delle buone cose. Questa è una squadra che ha una sua fisionomia, una sua logica, sappiamo che non dispone di grandissimi fuoriclasse, ma è un gruppo compatto, unito, con buone qualità e con buoni giovani, e vedrete che farà bene all'europeo. E come sta Zazà? Zazà. Cambio radio, andate a lavorare, che domanda idiota. 14:08:42, c'eravamo già noi? Sì, l'hai fatta tu sicuramente. La prima domanda, era la domanda che domanda era? De Luca, chi l'ha fatta la domanda idiota? Io. E ne rivendico la paternità. Esercizi preparatori alla melodia del mondo. Crosetti. Esatto. Ma è con noi? Certo, ho preso lo spigolo, con la fronte. Quando esce il libro grosso? Oggi, caro, proprio oggi. Siete sulla notizia come sempre, sì. Esercizi preparatori alla melodia del mondo di Maurizio Crosetti, lo consiglierei a Conte per preparare gli europei. Sì, anche sì, se più che la melodia contano gli esercizi qua, ragazzi. Bravo. Anche se è una storia d'amore in salsa un po' tragica, no? Perché si ispira molto a quel pianoforte al Bataclan. Sì, tragica, ma aperta, credo, a, come dire, a una speranza, a un futuro, a qualche cosa che non finisce nella carneficina. Poi in realtà sono diverse storie che si incrociano, però sì, credo che alla fine non rimanga soltanto l'amarezza, spero almeno. Ma quindi va bene per Conte? Beh, oddio, questa è una storia che ha un finale già scritto, ma abbastanza tellurico, quello di Conte, dico. E poi manca l'europeo, quindi manca l'ultimo capitolo. Lì devono ancora scriverlo, io il mio l'ho scritto, quindi sono già in vantaggio rispetto a Conte. Sì, ne abbiamo discusso a lungo ieri, sulla paura con cui andiamo all'europeo dopo aver preso quattro pappine. Però dico anche, mi viene anche da dire sulla nostra cultura del sospetto, nel senso che insomma io vedevo i social che per carità vanno presi con le stramolle, perché sono la cosa più di pancia che c'è. E perché poi è come tutte le cose anonime, no? Tanta gente magari dice delle cose e poi se li incontri e argomenti cambierebbe idea o avrebbe toni diversi. Però insomma sentivo che nella rabbia del momento c'era già il processo a un Conte con la testa in Inghilterra, che mi sembra, insomma, francamente mi sembra una follia. Sono d'accordo sul fatto che se la sia giocata malissimo e che quindi, cioè, parliamo di robe tecniche, ma pensare che Conte sia deconcentrato mi fa un po' ridere, no? Non esiste al mondo, solo chi non conosce Conte, ma nemmeno personalmente come lo conosciamo noi da tanti anni, ma chi non l'abbia neanche mai visto in azione può pensare a una cosa del genere. Cioè, tra tutte le conseguenze, le controindicazioni che possono nascere da questo rapporto che di fatto finisce prima del tempo e prima che si potesse compiere quello che era nelle speranze della Federcalcio e forse all'inizio anche di Conte, ma anche lì erano speranze indubbiamente riposti in un ottimismo eccessivo. Bene, al di là di questo, però, l'europeo sarà giocato senza questa zavorra, perché non c'è, cioè l'intensità, la voglia di fare, le capacità e anche i limiti prescinderanno da Conte a Londra. Magari questo è quello il problema, cioè noi rischiamo di fare un europeo difficile per i problemi strutturali di qualità e che sappiamo tutti. Magari il problema maggiore fosse Conte al Chelsea. Ma tu da dove partiresti? Facciamo un po' di toto europeo, poi tanto da domani ci concentriamo sul campionato, ma anche magari fra 5 minuti. Da dove si parte? Io partirei dai tre davanti, perché secondo me con i giocatori che ha Conte a disposizione bisogna giocare con la punta centrale con i due laterali e possono essere Insigne e Shaarawy, sì. Secondo me con Zaza, che essendo un matto scatenato può anche fregarsene dell'europeo, lui giocherebbe la partita contro il Belgio, contro la Germania, contro la Polonia, come quella contro l'Alpignano del giovedì in allenamento con la Juve. È matto in senso buono, ogni tanto si fa anche magari cacciare fuori, è un giocatore rischioso, ma secondo me pieno di talento, alla fine è quello che potrebbe anche spiazzare l'avversario. Io comincerei da quel modulo e poi certo la famosa fase difensiva andrebbe un po' rivista, anche se poi non si capisce perché un giocatore come Bonucci sia praticamente perfetto nella Juve e poi quando va in nazionale magari no, però è la vita. Magari perché non ci sono i due compari. E poi mi viene anche da dire che delle volte si alza anche il livello, perché è una cosa impressionante. Se vuoi qui ci ricolleghiamo al campionato, ne parlavo qualche giorno fa con calciatore della Sampdoria, di cui non faccio il nome, è come sia cambiato il calcio rispetto a 20 anni fa, nel senso che 20 anni fa tu avevi veramente 6-7 squadre sullo stesso livello e i problemi per le grandi erano con tutti, cioè pensare di poter fare una striscia come quella che ha fatto la Juve o come quella che sta facendo il Napoli, perché pure il Napoli non era partito bene, ha avuto qualche imperfezione in più nel suo cammino negli ultimi 5 mesi, ma comunque ha dei numeri impressionanti. Beh, insomma, 10 anni fa, 15 anni fa era difficile andare, non so, in casa del Milan con Shevchenko, in casa dell'Inter, in casa della Lazio con Vieri e Salas. Mi sembra che da questo punto di vista forse il campionato è un poco allenante, come disse una volta Capello, e apri di cielo? Sì. È un po' sì, è poco allenante, lo capiamo anche quando andiamo in Europa, al di là della Juve, che è un'anomalia però secondo me del nostro campionato. Perché ha lo stadio di proprietà, perché ha una continuità diversa, perché comunque ha un'abitudine anche internazionale che altre squadre non hanno, al di là appunto della Juve che si è battuta comunque molto bene contro il Bayern. Guardate che fine ha fatto la nazionale nello stesso stadio, anche perché ho l'impressione che la nazionale oggi sia molto più debole della Juventus e anche del Napoli e anche della Roma. Beh, in generale le nazionali sono più deboli delle squadre di club, in generale sì, ma in questo momento secondo me di più, cioè in questo momento la nostra nazionale esprime un calcio che effettivamente a livello di giocatori nati nel loro paese, insomma, è molto più lontano. Cioè i tedeschi di Germania sono oggi molto più forti degli italiani d'Italia, se mi sono spiegato, dei francesi di Francia, uh-huh, anche perché loro hanno comunque un bacino multietnico che da noi sta cominciando comunque Balotelli, Shaarawy, eccetera, Okaka, però secondo me gli altri hanno, al di là di una programmazione migliore, una visione migliore da tanto tempo, hanno poi alla fine anche più materiale umano, certo, su cui lavorare. Poi salta sempre fuori quello che chiede, ma Balotelli è italiano? Perché come saltano fuori quelli che hai letto, stai leggendo gli sms, Pierluigi? Sì, sì. Hai letto quante storie su... Prima abbiamo avuto Grosso, Maurizio, relatore, la primavera ha vinto il Viareggio. Non hai idea di quanti messaggi che scrivono: al secondo rigore è stato regalato, al Palermo ne manca uno che valeva il 3-3, insomma hanno vinto il Viareggio. Comunque io direi che per decreto legge bisognerebbe dire che il concetto di rigore non si può mai discutere se c'è di mezzo Grosso, perché dovremmo solo ricordare quel rigore là e quindi zitti. No, un'ultima cosa, quel gol là, si discuteva, e anche quel, forse ancora di più che quel rigore, certo. Si discuteva per lui, io discutevamo insomma a microfoni spenti anche con Cruciani delle telecronache di Trapattoni. Ti piace o non ti piace il Trappa commentare la nazionale? E io poche volte sono stato in imbarazzo, come l'altra sera, come telespettatore, per l'affetto che mi lega a quest'uomo e la conoscenza personale pluriennale. Mi ha proprio fatto pena, e lo dico con grande affetto. Secondo me lui potrebbe andare bene come opinionista, in studio ok, ma nei tempi della diretta si perde, ed è come se dopo tutta la sua carriera lo mettessero in mutande su un palcoscenico. E ho avuto, come dire, sono stato male per lui, ecco, non so, lo dico con affetto, non con critica. Vorrei proprio che lo fermassero prima dell'irreparabile. Quindi io la penso così. La pensi? Sì, ma anch'io più o meno la penso così. Cruciani diceva una sorta di stimolato. Cruciani dice, adesso poi magari verrà lui e dice, poi ne parlerà, insomma, adesso non facciamo che però insomma è un argomento del quale si parla, quindi sicuramente è un motivo che accende di interesse, quindi nel bene o nel male, ma accende l'interesse le telecronache della nazionale. Magari un pochino più stimolato, perché insomma chiaramente non basta essere stato ed essere un guru, un mito del calcio per poi, cioè, è un altro lavoro, quindi magari un pochino... Luigi, tu sei un telecronista di grande livello e sai che i tempi sono tutto. Quando lui spiega che l'azione si svolge in un certo modo è già in ritardo di due giochi, di due azioni, non si può fare, non ha proprio i tempi, e poi dice delle robe, sinceramente, ma lo dico con grande affetto, ma non la parolaccia, l'affetto credo che ce l'abbiamo tutti, no, però non si può fare una seconda voce dicendo dai bravo, dai sì, no, anzi, altro che sì, no. Grazie Cross, a presto. Ciao, Cross. A voi, ciao. A che ora finisce il volevo se bene, la nazionale con schifo e non lo dite, la Juve vincerà lo scudetto perché è tutto deciso, il Viareggio vi ho scritto prima ma non ve ne frega nulla, no, okay. Leggiamo questo 3-4-8, ieri ci sono stati, lo diciamo per chi non avesse visto la partita, che io ho visto soltanto nei servizi dopo, ci sono stati un po' di polemiche arbitrali anche nella finale del Viareggio, questo lo diciamo per completezza di informazione. Ecco, sì. 800-24-0024, vi aspettiamo dopo la borsa. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Alberto, stia tranquillo, non è arrivato Cruciani, cioè arriva dopo, è arrivato invece Marco Belinazzo. Eccomi, buon pomeriggio. Non ti voglio chiedere se ti piace il salame oppure no. Ma io mangio tutto. Tu mangi tutto come quelli normali. Pierluigi Pardo qui con me, Gianluigi, Giuseppe sono i primi due ascoltatori di oggi, 800-24-0024, numero verde, Gianluigi, buongiorno. Pardo, buon pomeriggio e grazie per la convocazione. A lei qualche volta la chiamano Pierluigi? Sì, spesso. Ah, ecco, questo mi incoraggia perché a me spesso mi chiamano Gianluigi e mi . Per par condicio. Ho due omonimi famosi, insomma, Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, sì. Lei fa il portiere nella vita? No, però paro altre cose. Immagino, bocca al lupo per le parate. Crepi. Sento un commento sulla nazionale. Nel mio modestissimo parere, Conte ha evidenziato un pochino i suoi limiti tattici. E forse anche l'anno scorso in Champions ha pagato un po' il fatto di fare un modulo sempre sulla propria forza, quindi un modulo che secondo me era poco adeguato alla forza degli avversari, in questo caso della Germania. In particolare un centrocampo con Motta e Montolivo in quella posizione, un attacco con una prima punta Zaza che è una punta ma non è prima, seconda, terza, un'ottima punta e basta, e una difesa a tre senza Chiellini mi è sembrato un po' presuntuoso, ecco. Sì, è un abbiamo discusso a lungo anche ieri. Conte è molto integralista nelle sue convinzioni, che aveva sbagliato la chimica di quel centrocampo. Mi sembra fuori discussione, ma l'abbiamo detto in tutti i modi possibili ieri. Sì, la chimica di quel centrocampo, e anche secondo me dal punto di vista difensivo, insomma, era difficile presentarsi così. Detto questo, parliamo di una partita sperimentale, ancora sperimentale, è chiaro che non può essere un alibi, però comunque Conte l'aveva detto sia prima della partita e l'ha ridetta a maggior ragione dopo. Sappiamo che poi spesso noi italiani soprattutto abbiamo bisogno dello schiaffone per poter tenere alta la tensione, quindi questo tipo di clima penso che ci faccia bene, che è un po' anche quello che ha fatto capire Buffon, e poi il resto speriamo bene. Quattro, certo, la qualità tanti, non è tantissima. Ti ricordi il gesto di Totti? Quattro e via. Giuseppe, buongiorno da Napoli. Buongiorno, grazie. Niente, io volevo ricollegarmi a quello che stavate dicendo poc'anzi con l'altro telespettatore su Conte. Sicuramente, voglio dire, lui conosceva bene quali erano i giocatori convocabili nel biennio che andava ad affrontare, perché lui ha fatto il giocatore, ha fatto l'allenatore, vive in Italia e sa bene quali sono i giocatori in Italia. Poi chiaramente la partita con la Germania, come state dicendo, non è da valutare, perché avevamo grosse assenze, non sarà questa la nostra nazionale di sicuro. Però io dico, una federazione che possa accettare un allenatore che vada via prima del tempo e lasciarlo andare avanti con le sue scelte, senza dargli già una, a questo punto diamogli noi una linea guida per capire poi dopo che dobbiamo fare. Mettiamo Tavecchio a fare allenatore al posto di Conte. Però io penso, con la sua presunzione, e ve lo dice, io sono juventino, voglio dire, quindi ho ammirato Conte, quindi da commissariamo giocatore. Conte. Non lo so se dobbiamo commissariarlo, però secondo me lui nei 23, anche se poi voglio dire, analizziamo le prime 6-7 squadre in Italia, giocatori italiani... A chi doveva convocare? No, ma qui giocatore, per esempio, Bonaventura, al di là del fatto. Bonaventura, ragione Pardo, sì. Che Bonaventura comunque ha delle possibilità di andare, no? Però ecco, per me è un titolare abbastanza inamovibile per quello che ha fatto vedere il campionato. Anche il dogma della difesa a tre, non lo so, ci penserei un secondo, anche se probabilmente è il modo per essere più solidi e più robusti. Io penso che Conte si giochi moltissimo in questo. Chi è che lo diceva ieri? Qualcuno lo diceva dal punto di vista della reputazione, qualche nostro, ormai sono bollito. Vabbè, comunque insomma, ieri se ne parlava e il tema era questo, cioè non, forse con Federico Conte, Ferri, sì, con Federico Conte si gioca tutto. Conte si gioca tutto dal punto di vista dell'immagine, paradossalmente di più che se rimanesse alla guida della nazionale. Ma chiaro, si gioca di più, quindi che possa essere distratto, boh, mi sembra un'assurdità. No, lo stesso Trappattoni, sì, gli arriverà qualche che... telefonata da Londra su qualche situazione di mercato, questo può essere la controindicazione, ma io penso che lui sarà completamente concentrato sul risultato. Lo stesso Trapattoni però ha detto se non va bene agli europei saranno cavoli amari per Conte, che verrà criticato da tutte le parti. Ancora in linea l'ascoltatore di Napoli? No, non c'è più. Volevo chiedere se vendevano Higuain. Lo chiediamo a Belinazzo? Chiediamo a Belinazzo. No, prima facciamo sentire, riepiloghiamo per la... Non mi funziona il microfono? Adesso sì. Ok. Riepiloghiamo per la cronaca. Sai che sono stato io il colpevole, che è deluso, ma ha guardato male. Ma scusa, io faccio talkback, escludo tutti. Sì. Pure lui escludo. Cioè, ho un potere sulla vita di Genta. Proviamo. Sì. Adesso posso parlare. Guarda, mi toglie la parola. Guarda De Luca, guarda. Robe da matti. Guarda De Luca. C'è stato questo servizio di Mediaset del collega Paolo Bargigia, che ha fatto infuriare, boh, secondo me oltre misura, il Napoli. Sentiamo un passaggio. Molto controvoglia il Napoli ha cominciato a lavorare per costruire il dopo Higuain nella prossima stagione. Se non interverranno nuovi fattori, se il giocatore non cambierà idea improvvisamente, la scelta comunicata al club di non voler rinnovare il contratto apre scenari importanti sul mercato. De Laurentiis ne sta prendendo atto con un po' di delusione, ma gioco forza senza rinnovo deve mettere il giocatore in vendita in estate per non arrivare tra un anno in scadenza e con il costo di Higuain parecchio svalutato. Eccetera eccetera eccetera. Il Napoli ha risposto che è esterrefatto per il servizio andato in onda su Mediaset, che racconta una serie di falsità riguardanti i rapporti di lavoro tra Higuain e il club, un servizio privo di veridicità e confezionato senza rispettare alcuna regola giornalistica. Su tutto il controllo delle fonti, non esiste infatti alcuna fonte che possa confermare quello che Bargigia dice, cioè il falso, e da lì la volontà di interrompere i rapporti giornalistici con la redazione, con la rete sportiva. Pure Tiki-Taka non ci manda nessuno. No, ti manda più nessuno neanche a Tiki-Taka. Almeno per il momento. No, a parte le battute. No, adesso quello che io, fra l'altro, lo sento adesso. Questo servizio mi sembra. Non lo so se è vero o non è vero. Ovviamente, se Bargigia dice queste cose, avrà fatto le sue verifiche. E soprattutto mi sembra, insomma, in linea con mille altri servizi che abbiamo sentito da parte di tutte le testate, ivi compresa Mediaset. Quindi non so, sentiamo Belinazzo, che finora a Napoli vicino al cuore. Cioè, finora... No, voglio dire, finora mi sembra che se ne sia discusso del possibile addio di Higuain. Ora, io credo che una società di calcio seria e importante possa smentire, ma da lì a poi rompere rapporti con testate giornalistiche, ce ne passi. No, sinceramente, ma sul serio io non ci leggo niente. Detto questo, credo che ci sia un nervosismo legato effettivamente a una situazione Higuain che va definita per il meglio di entrambe le parti. Chiaro. Ora, Higuain è il patrimonio sportivo del Napoli, può essere anche un patrimonio finanziario, considerando certo. anche l'età, considerando la stagione che sta vivendo. Sappiamo, se ne è scritto in abbondanza di questa clausola rescissoria da oltre 90 milioni, il contratto scade nel 2018, nel servizio giustamente si fa riferimento a cosa? Al fatto che dovesse passare una stagione senza rinnovo, il Napoli si ritroverebbe con un giocatore che di fatto a inizio gennaio 2018 potrebbe scegliersi un'altra squadra e il Napoli perderebbe un capitale enorme. Quindi da qui la necessità, evidentemente, qualora sia chiara, precisa la volontà del giocatore di lasciare il club e di andare legittimamente a provare un'altra esperienza, insomma, Napoli dovrà potrebbe anche essere tutelarsi. Sano venderlo a 94 milioni quest'estate, ci fai mezza squadra. Assolutamente. Poi è ovvio che, ma mi sembra fra l'altro che il pezzo lo dicesse, che la volontà del Napoli sarebbe quella di tenerlo e di offrirgli un rinnovo di contratto. Quindi vabbè, detto questo, siccome mille volte si è parlato anche di Pogba, io poi non sono un esperto di mercato o un grande appassionato, però mi sembra che anche su Pogba tante volte si siano fatti delle voci, no? Quindi poi alla fine non credo sia un discorso, cioè il sospetto di voler destabilizzare l'ambiente mi fa, no, abbastanza. Tra l'altro su Pogba Lippi ha detto oggi, beh, potrebbe anche essere un'idea venderlo, poi dipende da come reinvesti i tanti soldi che ti danno, perché sono comunque sì, problemi di mercato, no? Ripeto, è una scelta molto netta quella che si vorrà nelle prossime settimane. Ma tu da tifoso del Napoli che faresti? Ecco, fossi De Laurentiis, che guarda, faresti di tutto per tenerlo? Cercheresti di monetizzare a 94 milioni per comprare? Sì, 94 sono tanti, eh? Un giocatore che ha 27-28 anni, che sta vivendo la sua migliore stagione e che l'anno prossimo vuole andare da un'altra parte, io scontento un anno non me lo tengo, soprattutto certo. col carattere, soprattutto potendolo vendere sui massimi, come dicono i nostri amici della borsa, no? Quindi come direbbe Barisoni, in un discorso puramente finanziario, anche 80 milioni prendo e porto a casa, anche perché il Napoli farebbe a quel punto una plusvalenza dei 50-60 milioni, insomma, considerando che ho già ammortizzato un paio d'anni di Higuaín, forse qualcosina anche in più. Guarda, di plusvalenza. Io sono convinto che se lo vogliono in Inghilterra, si è parlato anche del Chelsea di Conte, si è parlato di squadre inglesi, quelli possono arrivare a pagare la clausola. Assolutamente, io credo che a quel punto bisogna essere fermi da parte di De Laurentiis nel pretendere la clausola accessoria, sì, comunque una cifra molto vicina a quella, e poi magari iniziare a programmare. Però la cosa fondamentale è che mi auguro, insomma, non solo per il bene del Napoli ma proprio per il bene del calcio italiano, che ci sia chiarezza, insomma, in questa situazione, ci sia una scelta precisa in modo tale che si possa programmare. Ecco, perdere anche Higuaín, che in questo momento è il faro della Serie A, no? È il giocatore più importante, con la prospettiva magari di perdere anche Pogba e poi Dybala, insomma, sarebbe assolutamente problematico. Però, con i soldi che arrivano, qualcun altro lo puoi, però, anche lo puoi pensare di prendere. Riesci a farlo, però, programmando. Ci dici perché gli spagnoli sono più fighi di noi? Dopo Barça Real. Dopo il traffico. Tutti convocati. Pantera col TH. L'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta... Convocati. Sì, Pierluigi, cosa vuoi sapere? No, durante le borse ci stavi spiegando proprio in maniera empirica perché gli spagnoli sono fighi e noi no. Beh, proprio, ecco. Diciamo che gli spagnoli si trovavano in una situazione molto peggiore di quella che può essere definita la situazione attuale del calcio italiano, cioè con una ventina di squadre in amministrazione controllata, circa 3-4 miliardi di debiti, la maggior parte con il fisco, e hanno varato qualche anno fa un piano, diciamo, di ricostruzione del calcio iberico al di là delle isole felici di Real e Barcellona, che prevedeva per esempio l'alleanza con i fondi, ne hanno beneficiato in particolare squadre come Siviglia e Atletico Madrid, prevedeva la cessione all'estero di molti giocatori per far crescere i giovani e per fare cassa. Tutto questo è avvenuto e ora, peraltro, altro inciso, la Lega Spagnola è l'unica che vendeva i diritti TV in maniera individuale, cioè ogni squadra andava a contrattare, ovviamente la torta maggiore era per l'offerta della torta era prevalentemente per Real e Barcellona. Da prossimo anno si passerà alla vendita collettiva. Real e Barcellona potranno incassare e dovranno incassare una cifra di 150 milioni, per gli altri ovviamente salirà il prezzo. E tutto questo ha portato proprio in questi giorni, è stato pubblicato il report della Lega spagnola ha un fatturato complessivo di 2,4 miliardi, noi siamo fermi da anni a 1,6-1,7 e soprattutto al fatto che sono stati prodotti utili per 180 milioni, noi perdiamo ogni anno 300 milioni. Ecco, questo ha fatto sì che la Lega spagnola, insomma, oggi insidia la Bundesliga che fa 2,6 di fatturato al secondo posto, è una Lega più sana di qualche anno fa, sicuramente più viva, ha le due squadre più ricche del mondo. Dobbiamo solo arrivare a 600 milioni. No? Ma anche qualcosa in meno, insomma, ma bisogna avere un progetto comune. Come ecco, fanno a che fare 600 milioni più di noi? Allora, diritti televisivi, siamo allora, per diritti TV parliamo 150-160 milioni e dobbiamo calcolare 60-70 milioni fisso di Champions. Più noi o più loro? In che senso? Il contratto? Il contratto, finché c'era la vendita individuale, guadagnava di più l'Italia, 1,2 miliardi contro 800-900 milioni. Ora con il nuovo contratto collettivo la Liga spagnola è 1,3-1,4, okay. Quindi al terzo posto c'è la Bundesliga, meno di 900 milioni, ma la Bundesliga tra qualche mese inizierà la vendita dei diritti TV per il prossimo quadriennio e punta ovviamente a superarci anche la Bundesliga. Non parliamo ovviamente della Premier che viaggia a 3,9 miliardi, insomma, altro pianeta. Però questo ci fa capire come con una visione collettiva e non si può fare. Si può fare e tra l'altro è stato fatto con uno scontro continuo tra Lega e Federazione in Spagna, quindi non è che tutto fosse semplice. E con due realtà come Real e Barcellona che hanno finito per schiacciare, ripeto, c'erano 20 squadre in amministrazione controllata. Certo. Però voglio dire, si sono andati da fare e hanno vinto sul campo in questi anni tantissimo e ora stanno iniziando anche a ottenere bei risultati dal punto di vista finanziari, che insomma, invidia, pardon. Giusto per farci stare più sì, tranquilli. Invidia. No, l'invidia è totale perché poi, vedi, hanno iniziato proprio un percorso, banalmente, cosa, cioè, ecco, portato, appunto, cosa abbiamo l'hanno portato meno, a compimento. Sinceramente, cosa abbiamo meno di loro? In questo momento tante cose, però insomma, se valutiamo anche in termini di brand. Fino a 10 anni fa, insomma, il calcio dominante era più il nostro che loro. La differenza, quindi, per esempio, è il fatto che noi tutta la Serie A incassa dagli stadi tipo 200 milioni, a Madrid e ne incassano più di 100 da solo, Real Madrid, 100 il Barcellona, in tutto facciamo quasi 500 milioni. Ma sai perché solo ti dico stadi? Cosa hanno più di noi? Perché poi, tolte il Barcellona e Real Madrid, insomma, cioè, gli stadi in Spagna, io ci sono stato, grazie a Dio, ringrazio Dio per fare questa vita meravigliosa. Cioè, lo stadio di Siviglia, cade a pezzi, il Sanchez Pizjuan, cade a pezzi, il Mestalla l'hanno rifatto nuovo, ma prima era terribile. Cioè, non è l'Inghilterra. Allora, con l'Inghilterra tu puoi accettare che sia un altro mondo, un'altra cultura, stadi tutti di proprietà, eccetera. La Spagna mi sembra che abbia fatto delle cose molto più rapide, molto più veloci, molto più ficcanti negli ultimi anni per poter funzionare. Ecco. Però, appunto, ci sono tanti progetti e c'è anche la capacità di portarli a compimento, ripeto, sul piano sportivo e finanziario. Penso appunto al Siviglia che ha vinto le ultime due edizioni dell'Europa League, penso all'Atletico Madrid che ha sfiorato con 120-130 milioni di fatturato quanto il Napoli ha sfiorato la vittoria in Champions. L'Europa League secondo me è una grande differenza tra Spagna e Italia, al di là del fatto che in questo momento sono complessivamente più forti loro, ma l'approccio che le spagnole hanno avuto con l'Europa League in questi anni, l'Atletico Madrid prima, il Siviglia poi, l'hanno proprio sfruttata come un volano che gli ha moltiplicato gli introiti, quello, li ha fatti quello, crescere. Perché c'era, diciamo, questa alleanza con i fondi, con le famose TPO, no, l'acquisto di quote di cartellini da parte di fondi. Tra l'altro sono appena arrivate le sanzioni alla FIFA per esempio per il Siviglia, per il Santos. Poca roba sul piano economico, multe da 70.000-60.000 euro, ma un chiaro messaggio perché non sono più possibili le TPO, quindi Mino Raiola non potrà comprarsi Donnarumma. Le TPO sono fondi che acquistano i cartellini, l'acquisto di una quota del cartellino da parte di un privato, di un soggetto che quindi non è una società di calcio, non è più possibile farlo dal 1 maggio 2015, e però in tanti modi si cerca di dribblare questo divieto perché le banche non danno più soldi alla società di calcio e quindi c'è bisogno di cercare soldi da altre parti. Senti, invece sulla Champions League che verrà, c'è qualche novità? Beh, si sta continuando a discutere, sai che si è parlato tanto di Superlega che era fondamentalmente un modo per far pressione alla UEFA per riformare e ricostruire la Champions. Ovviamente la Champions in questo momento permette di incassare circa 1,5 miliardi con diritti TV e parte commerciale. secondo Andrea Agnelli, per esempio, è pochissimo, considerando che gli appassionati o quelli che la seguirebbero nel mondo sono più di 2 miliardi, mentre per esempio gli appassionati del football americano sono 150 milioni nel mondo, qualcosina in più, ma la NFL fa 5 miliardi di fatturato. Quindi lui dice, insieme a Rummenig, stiamo sbagliando qualcosa, si può incassare di più. Torto non ha. Esattamente. Come incassi di più? Ovviamente facendo sì che le big europee abbiano la possibilità di giocare partite tra di loro, più partite tra di loro. Voglio dire che un Real Madrid a Poel Nicosia è una cosa, un Barcellona, no, Manchester United, giocata magari un paio di volte o tre volte durante la stagione, è più affascinante. Ma io sono d'accordo, vedrei volentieri 3-4 volte. Sì, sì. Barcellona, Manchester United piuttosto. Però un modello NBA, insomma. Però attenzione alla saturazione e attenzione soprattutto a non giocare troppo. Già lo si è fatto molto con la tradizione, nel senso che secondo me già la Champions League di oggi col format attuale è un gran bel compromesso fra la voglia di vedere grandi partite. Adesso abbiamo per esempio questi Barcellona Atletico Madrid fantastici, dovremmo avere delle grandi semifinali di Champions, quindi voglia di vedere grandissime partite e però un legame con la tradizione. Se poi diventa una roba in cui non ci sono più cioè il diritto divino di una squadra è stabilito dal bacino d'utenza, secondo me perdiamo un altro pezzo della sacralità del calcio, che alla lunga, secondo me, un po' rompe le scatole. Ci deve essere comunque una meritocrazia nella... Ragazzi, siamo per vivere un derby a Roma, leggevo i dati sulla prevendita, al di là delle polemiche giuste o sbagliate delle curve, altro argomento, ma pure quelli della tribuna non ci vanno allo stadio, perché se oggi sono stati venduti ad oggi 15.000 biglietti, 6.000 dei tifosi della Lazio, 9.000 quelli della Roma, vuol dire che il problema non è soltanto il gruppo ultra con il prefetto o con il questore, il problema è più reale, è più complessivo e riguarda proprio l'abitudine ad andare allo stadio. Insomma, mi sembra... Ma tu comunque vai a vedere una partita del campionato italiano e molto spesso ti trovi in una situazione di gelo, no? Perché magari sei seduto lì intorno ai 20 seggiolini vuoti, l'ambiente, quelle componenti ormai le trovi parlando di stadi, no? Sono 15.000 posti, al Manchester United si sta discutendo di come ampliare l'Old Trafford per trovare altri 9.000 posti perché c'è tantissima richiesta. Al di là di questo, mi è capitato la settimana scorsa di essere, per motivi diciamo professionali, a Udine per Italia-Spagna. Lo stadio di Udine è un esempio virtuoso. L'Udinese sta andando male, spesso vediamo i seggiolini colorati vuoti, per cui non si è riempito. Per Italia-Spagna era pieno, c'era un'atmosfera fantastica, è una di quelle realtà con i servizi, io ho potuto fare tutto il giro dello stadio, che testimonia di come diciamo non è miracoloso riuscire a fare uno stadio con standard europei. Ma posso dire, insomma, c'è anche un elemento di pigrizia sui prezzi, perché una delle famose cose che venne detta quando 20 anni fa si cominciò a vendere alle televisioni i diritti delle partite era che gli introiti delle partite avrebbero garantito un abbassamento del prezzo dei biglietti delle partite. Secondo me non sono competitivi, complessivamente non sono competitivi, perché tu vai delle volte in dei settori nemmeno troppo centrali, spendi 70-80 euro per vedere una partita. No, ma chiaro, sono 2 mesi di abbonamento alla PTV, premesso che andare allo stadio è 10 volte meglio, 100 volte meglio, lo dico da persona che lavora in televisione e che è felice quando la partita la commenta non da tubo ma dallo stadio, perché è tutta un'altra cosa. Però insomma una famiglia magari si fa anche dei calcoli. Hai visto a Torino, Cairo, quando ha abbassato i prezzi ha fatto queste politiche particolari, tutti convocati allo stadio ha praticamente riempito. Grazie Marco, grazie, alla prossima. A presto. Grazie Marco Berinazzo, Pierluigi stai qui, andiamo avanti dopo il GR. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Tutti convocati. Luigi, direi di aprire tutte le porte possibili ai convocati. Assolutamente. 800-24-0024. Giuseppe, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. Dica. Allora, no, volevo intervenire riguardo al servizio del bargista per esprimere il mio parere. Io credo che non tanto il servizio sia Giuseppe, mi fa un piacere, togli il viva voce, può parlare con normale, perché sennò c'è l'effetto Pardo. No, sa perché? Perché stavo in macchina e aspettavo di essere messo in comunicazione. Certo. Allora, no, dicevo che non è il servizio in sé, perché se ne fanno tanti, insomma, il panorama giornalistico sportivo è tipo di notizie relative al mercato. Quello che differenzia il servizio del Bargigia, secondo me, è che non parla di ipotesi come tutti quanti fanno. Il Bargigia usa termini, come dire, assertivi, assoluti. Higuain ha comunicato che non rinnoverà il contratto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo credo che sia, prima di tutto, un danno per chi usufruisce dell'informazione. Ma sembra che Napoli sta cominciando a pensare, sta cominciando a pensare a malincuore a un'eventuale ipotesi. Cioè, mi sembra molto così. Io quello che voglio dire, premesso che sono un collaboratore Mediaset, quindi non rispondo solo per me stesso, però rispondo per la mia esperienza, prima a Sky e poi a Mediaset. Io quello che trovo veramente sbagliato, l'unica cosa che mi dà fastidio è l'idea che ci possa essere un disegno. Ecco, questa è una cosa che mi sembra una follia. Bargigia ha parlato mille volte di Pogba nel passato, a Tiki Taka recentemente abbiamo avuto mezz'ora di Moviola sulla Juve, poi sul Napoli, cioè si parla di quello che succede. L'anno scorso abbiamo parlato per un'ora del gol di Astori a Udine, se era gol o non era gol. Cioè, questo tipo di idea, questo tipo di pensiero, ma questo posso dire per la mia esperienza, avendo lavorato per due delle tre principali televisioni italiane, mi manca la Rai, ma insomma immagino che anche lì funzioni in questa maniera, è che non esiste nessuno, ma veramente nessuno, che viene e che ti detta una linea. Questo è una cosa irricevibile, vi assicuro, è una cosa irricevibile. Poi uno può dire una cosa, questa cosa può essere detta bene, può essere detta male, un giorno la polemica è più su una squadra e più su un'altra. Però questo è anche quello che vedo francamente da parte dei colleghi di carta stampata. Mi sembra questa idea del disegno la trovo ridicola, la trovo proprio assurda. Nel comunicato di Napoli c'è questa frase: Napoli e i suoi tifosi non temono i poteri forti e chi voglia destabilizzare un ambiente carico e sereno. Ma per cosa? Di cosa stiamo parlando? Ci mancherebbe altro che ci fosse voglia di destabilizzare da una parte o dall'altra, da una parte o dall'altra. Io dopo Tiki Taka, per dirti, 9 puntate di 10 sono tranquille, poi c'è la puntata invece della grande polemica, e quella puntata lì tu ricevi messaggi degli juventini che dicono che sono tutti a favore del Napoli, dei napoletani che ti dicono che sono tutti a favore della Juve, e in quel momento lì ti rendi conto che male non è andato. Qualche volta l'ho anche fatto, ne prendo due e gli dico: mettetevi d'accordo e fateci sapere che cosa siamo. Finché c'è una pluralità di opinioni, questo mi sembra che sia una garanzia deontologica. Però ecco, ripeto, no, per la mia esperienza, Sky prima e a Mediaset poi, vediamo che succede. Io non ho mai ricevuto neanche un occhiolino, mi raccomando parla bene di, proprio mai ricevuto, né a Sky né a Mediaset. Quindi pensare che Bargigia dica una cosa per destabilizzare mi viene da ridere, anche perché poi, ripeto, oggi sul web c'erano pure vari esempi di servizi di Bargigia fatti, per esempio su Pogba, è il primo che mi viene in mente, no? Per l'altro grande giocatore del quale Pogba si è discusso. Pogba sta ancora là. Si è parlato di Tevez per tante volte, no? Sì, certo. Così come si era parlato di Cavani prima. Cioè, ragazzi, è l'informazione, se no uno non dice niente. Stiamo tutti zitti. Gianni. E questo è. Poi io auguro ai tifosi del Napoli di tenere Higuain, auguro al presidente, fra l'altro il pezzo mi pare dicesse anche questo, no? Che poi la volontà di partenza della società è quella di proporgli un rinnovo contrattuale, certo. Gianni? Eccolo, buongiorno a tutti, sono Gianni da Firenze. Volevo riprendere il discorso dell'allontanamento del pubblico dagli stadi. Io mi sono dato delle spiegazioni, perché anch'io purtroppo sono diventato vittima, un pantofolaio, vittima della televisione, di Sky, te lo vedi. Io credo che sia scarso interesse che io faccio, ma non è nemmeno un discorso di colore a questo punto, ma credo che anche che una squadra che vince le ultime 19 partite su 20, insomma, sia difficile. Cioè, lei dice scarso equilibrio degli ultimi N campionati. Sì, e poi anche stadi scomodi, prezzi alti. Qui adesso c'è un ascoltatore che ci scrive: Juve-Empoli, un biglietto laterale €75. Stiamo parlando, lo dico io, aggiungo io, questo è Ale da finale, forse da finale Ligure, quindi anche lui ormai patito di tiki-taka, o forse finale Emilia, non lo so. Comunque il punto è che anche parliamo di uno stadio bello, no? Come quello della Juve, sicuramente, certo, dove la partita si vede bene, però i prezzi comunque sono alti, molto lì come alti, da altre parti, cioè se li paragoniamo col prezzo di abbonamento a un canale televisivo, sia Sky o Mediaset, no, è un prezzo molto più alto. Premesso che andare allo stadio è mille volte meglio. Io sono sempre stato convinto del fatto che non sia la proliferazione delle partite in televisione ad aver allontanato. Ma assolutamente, perché poi la grande partita gli 80.000 li fa. Ma poi, al di là di quello, come dicono moltissimi esperti, cioè vedere la partita allo stadio è un'altra cosa rispetto a vederla in televisione. Lo dico da persona che lavora in televisione, e ribadisco, l'ho fatto mille volte sul discorso, chiedo scusa, che anche dal punto di vista delle televisioni non c'è un dirigente televisivo di un canale satellitare o in chiaro che sogni di vedere uno stadio vuoto pensando che quella gente che non c'è sta vedendo la partita in televisione. La partita televisivamente, l'impatto che ti dà uno stadio pieno, un'atmosfera come quella, ti aiuta a venderla, ammesso che sia una partita a pagamento, e se anche una partita free, una partita gratis, comunque tiene incollate le persone a guardarla. Quindi nessun dirigente, ma quante volte ti hanno detto che scanalando, se tu vedi uno stadio di qualunque sport, di qualunque genere, vedi pieno, uno stadio pieno, magari ti fermi, magari ti fermi un attimo. Vedi uno stadio con 20 persone dentro, non è una cosa normale. È come quando c'era anche una pubblicità da qualche parte, forse proprio radiofonica, c'è un ristorante che vedi che è pieno e un ristorante che è vuoto, e quello pieno ti fa venire voglia di andarci dentro, quello, no? Da 10 euro quello pieno, ma quella è un'altra storia. Sei fissato così? Vincenzo, ciao Conte. Filippo Maria Ricci, buon pomeriggio, che passa, che passa. Ci vediamo a Barcellona a proposito di grandi partite martedì. Martedì io ho il doblete, sabato e martedì. Capito? No, ma se volete mettetevi pure d'accordo. Capito, la vita di Ricci. No, ma certo, voglio dire. Guarda, qualche minuto fa parlavamo con Beninazzo dei segreti del calcio spagnolo, ma in realtà ignoravamo il principale, cioè l'arrivo di Ricci, che si presenta che si presenta in Spagna nell'estate del 2006, no? Dopo aver reso grande la Premier. Esatto, quando sei arrivato? Nel 2006? Tutto, 2006, giusto. Hai spostato gli equilibri da quel momento in poi. Sì. La finale vinta dal Barcellona nel 2006 a Parigi contro l'Arsenal, in realtà era già si stava scontando il fatto che Ricci sapeva che si sarebbe trasferito, certo, quindi era già il primo segnale. E poi vabbè, insomma, dai. Da lì ti diverti abbastanza, Dopo aver reso grande la Premier League. Ma cosa hanno vinto le squadre spagnole? Hanno vinto 6 Champions su 10 o 6 su 11. Che palle. Io tifo contro, guarda. Torna qua, torna da noi. Io tifo contro. Torna da noi, magari ci porti un po' di culo, dai. Vincenzo da Bari, sentiamo anche lui. Buongiorno. Pronto? Dica. Pronto, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo farvi due domande, una inerente alla nazionale e una per quanto riguarda Antonio Cassano. Sì. Allora, la prima della nazionale, volevo fare un appunto, che premessa che tecnicamente ci sono squadre nazionali più forti di quella nostra e vabbè, ma quello che mi salta all'occhio è che da un po' di anni a questa parte ci sono squadre, tra queste anche la Germania, che si sono impadroniti della nostra organizzazione difensiva. Cioè, l'altro giorno la Germania si è chiusa benissimo in difesa e ha fatto capire che ci si può ancora difendere alla grande, cioè come ci difendevamo noi negli anni Ottanta. Questa è la prima domanda. Per quanto riguarda la seconda su Antonio Cassano, io sono un grande estimatore e ammiratore, reputo Antonio insieme a Pirlo e Francesco Totti i più forti fuori classe degli ultimi 20 anni, e c'è la possibilità, una rarissima possibilità, che Antonio Conte lo possa chiamare in nazionale. Grazie. Ma risponde Parma. Credo di no, credo che sia fuori tempo massimo, e francamente credo che non sarebbe neanche, diciamo, in linea con quello che si è visto in questa stagione, con tutto l'affetto che ho, ma non credo che Cassano meriti di andare in nazionale questa volta. Secondo me lo meritava magari in altre circostanze, nel famoso mondiale 2010, quando secondo me poteva essere molto utile, ma insomma vabbè, quella è storia. Poi è chiaro che è uno di quei giocatori che se sta bene fisicamente, ma poi lo stesso discorso di Balotelli, no? Sono quei giocatori che magari non vedi tutto l'anno, poi possono avere il mese straordinario, ma credo che Conte assolutamente non ci abbia neanche pensato. Filippo, che classico sarà? Non uno dei più equilibrati di sempre, non uno dei più ricchi di pathos di sempre. No, ci sono 10 punti di distacco. Appunto. 10 punti di distacco, però diciamo è la prima grande sfida un po' tra questi due attacchi, perché quest'anno si sono visti poco, cioè il Barcellona ovviamente i tre davanti hanno fatto di più dei tre del Real Madrid, però all'andata Messi era in panchina, è rientrato poi nella seconda parte. E voglio dire, il pathos che c'è di questo classico è vedere quanto il Barcellona vuole o può far male al Real Madrid. All'andata ha vinto 4-0, ci sarà un grande omaggio a Cruyff, io vedo un Madrid in crescita, però secondo me il Madrid rischia col Barcellona, e bisogna vedere se come ne esce, perché è un po' il discorso che è legato al classico e poi alla Champions. Sì. E per il futuro di Zidane io lo guardo in quella dimensione lì. È il primo classico di Zidane, Benitez è uscito con le ossa rotte, non per colpa sua, perché gli avevano fatto cambiare la squadra, ed è curioso perché non per colpa sua lui ha accettato di cambiarla. Però sai che insomma, qui siamo sempre lì, no? Siamo sempre lì. No, però fa ridere che adesso l'uomo chiave è tornato ad essere Casemiro, no? Il povero Casemiro che Benitez è l'uomo del classico, dai, Casemiro. Capito? Cioè, è il classico di Casemiro, questo, insomma, lui Benitez lo voleva, l'aveva fatto giocare titolare così, poi quel giorno qualcuno gli ha detto: no, guarda, oggi hoy juegan los buenos, e quindi los buenos, Casemiro, si accomoda in panchina, finisce 4-0, los buenos non erano così buenos, no. È un po' la storia, no, però dicevo soprattutto per il futuro di Zidane. Beh, il futuro di Zidane che vedo abbastanza segnato, a meno di vittoria dell'undecima. Secondo me se esce bene, anche come un po' come fece Mourinho, no? Mourinho, ti ricordi la storica conferenza stampa in cui si vantava delle tre semifinali, no? Mm-hmm. Perché dice: no, ma voi qua siete usciti 6 anni di seguito agli ottavi, sono arrivato io, 3 semifinali. Quello è a Florentino il discorso bastava al tempo. Se Zidane esce bene se la vince, ovviamente è confermato, ma anche se dovesse uscire sul finale con una delle squadre migliori, senza rimetterci la faccia, poi lo potrebbero confermare. Potrebbero anche per confermare. Mancanza delle alternative. Sì, che adesso non sono così brillanti, però ci sono due grandi suggestioni a Pierluigi. C'è lo citava, lo evocava Filippo, e sarà questa ombra di Cruyff, questa suggestione di Cruyff sul Camp Nou, e poi c'è Messi che insegue il gol numero 500. In sì. La mezza piotta, come si dice. Vabbè. No, beh, no, 5 piotte, la piotta è 100. Ah, certo, giusto, sì, 50, vedi che troppo non tempo più, via. Non sei più ormai. Questo è un errore sei fuori dai giri. Guarda, posso dirti una cosa? Il mio consiglio è autodenunciati su Twitter, perché sì, tanto sì, questo è veramente piuttosto che lo scrivano gli altri, di ragazzi, un lapsus terribile. Vai a Ponte Milvio in pellegrinaggio a piedi, così fai. Non mi fanno più entrare. Ti inginocchi. Ci sarà il lucchetto. Esatto, il lucchetto pararicio. No, beh, insomma, allora la suggestione di Greif è una suggestione chiaramente straordinaria, secondo me è la suggestione prevalente. Fra l'altro ci sarà il mosaico, se non ho visto male, sì, no? Sì, quindi sì, la famosa coreografia a mosaico che fa sempre il Barcellona prima delle grandi partite sarà dedicata a Cruyff. Per quanto riguarda Messi invece mi sembra semplicemente un altro milestone, no? Un'altra pietra, sì. Ma ce ne saranno tante altre, no? Ecco, poi ci vediamo a 600, poi magari ci vedremo a 700. Beh, insomma, 500 è un, no, certo, è un numero importante. Visto che tutti quei pazzi che si sono tatuati Messi, quelle pazze che sono tatuati Messi su ogni parte del corpo, sì, dalle gambe al petto, e poi c'è chi si tatua Cristiano Ronaldo, ma ho visto oggi c'è anche chi si tatua Inzaghi. Cioè uno ognuno si tatua di pane. Io avevo capito. Potrebbe anche esserci un limite. Ci sono dei filmati agghiaccianti. Padoin è diventato, per esempio, un eroe per i ragazzi dei social. Magari qualcuno si è tatuato pure Padoin. Non è che, no, aspettiamo il tatuaggio di Pardo. No, io sono contrario. Fatelo e mostratecelo. Anche quello qui siamo in due senza tatuaggi contro uno che ce ne ha. Sì, sì, ma perché secondo me, perché io sono talmente umorale, talmente ondivago, sì, che se anche sì, c'è l'idea che questa roba me la devo portare tutta la vita, no, scherziamo. Cioè io cambierei dal tatuatore, secondo me farò là. No, aspetta, ho cambiato idea. Aggiungici una gazzella. Vabbè, Filippo, ti saluto. Grazie. Alla prossima, sentiamo nei prossimi giorni. Ciao, sentiamo nei prossimi giorni. Chi va a ganare secondo te questa partita? Tralasciando il Barcellona. Tralasciando i prezzi, ti è piaciuto come sono sprezzante. Quest'anno l'Inter non ha quasi mai giocato di pomeriggio, è impossibile portare ragazzi e bambini ed anche per un adulto è dura, Joe, anche questo chiaramente è un elemento. Lo stadio da emozioni, ma la partita vista da una curva, specie una pista atletica davanti, non è una partita, dice Luca da Roma, e c'entra anche nello specifico, anche se non è soltanto un dato di quest'anno, perché l'Olimpico è lì da tanti anni. A proposito di Roma, secondo me è uno stadio che non aiuta, perché la pista l'Olimpico è bellissimo, però appunto è uno stadio che non nasce per il calcio. Non è più adeguato. Io ho visto tatuaggi di Gigi D'Alessio, su questo tralascerei. Ma vale tutto. Vale tutto. Senti, prossimo weekend, poi domani affrontiamo il tema con più calma. Come lo vedi? Ti sembra qualcosa di interessante, di cruciale, considerato che la Juventus gioca in casa con l'Empoli, è vero, ma praticamente è fuori mezza squadra. Sì, però secondo me rischia più il Napoli. Dovrebbero vincere tutte e due, però come succede praticamente sempre. Però questa volta, secondo me, il Napoli qualche rischio più ce l'ha, perché comunque De Canio ha dato un'assestata all'Udinese. L'Udinese ha più motivazioni dell'Empoli, gioca in casa, non è una partita semplicissima. Insomma, poi la settimana dopo ci sarà invece Milan-Juve, che secondo me è la curva più pericolosa in assoluto, ovviamente assieme a Firenze, del campionato della Juve. Quindi poi la prossima settimana il Napoli avrà una possibilità, ma in questa credo che, fossi il Napoli, firmerei a stare alla stessa distanza. Sì, invece abbiamo accennato a questo derby di Roma, sai, i tifosi da Roma si sono dati appuntamento a testaccio, poi vogliono fare lo stadio nuovo a Roma, ma per chi? Quelli della Lazio a Ponte Milvio. Il problema di fondo sarà, che ribadisco, un derby surreale come gli ultimi che abbiamo visto. E la considerazione è quella che faccio prima, cioè tante volte si è detto legittimamente, no, che poi nelle curve ci possono essere anche dei pericoli. Però allora perché se le curve non vanno allo stadio tutto il resto non è pieno? Allora vuol dire che il problema non è soltanto nella dialettica complicata che esiste fra i tifosi e il questore e il prefetto. È proprio... Però tu mi sembri, però il derby di Roma normalmente, cioè, non, i biglietti non li trovavi. Appunto per questo. Quindi vuol dire che c'è qualcos'altro, che non è un problema che riguarda soltanto i famosi quattro scalmanati, come dice qualcuno, no? O un rapporto fra capi ultra e prefetto e questore sulla famosa questione dello sciopero del tifo, che ripeto, per me, me ne assumo le responsabilità, è pienamente legittimo, nel senso che se uno si abbona allo stadio e poi, per rispetto a un'idea, giusto o sbagliata che sia, decide di non volerci andare, di rinunciare a quel diritto, e lo fa però in maniera pacifica, come mi pare sia sempre successo quest'anno, io non vedo niente di male nel comportamento dei tifosi che hanno disertato le curve. Semmai hanno fatto un danno alle proprie squadre, però un danno ovviamente di atmosfera e di ambiente, ma erano pienamente legittimati a poterlo fare, quindi su questo non ci sono dubbi. E la dimostrazione è che poi non sia però soltanto questo, che non sia solo eventualmente colpa, tra virgolette, loro, la vedi dal dato sulle tribune, perché tutto il resto dovrebbe essere strapieno e invece purtroppo non lo è, quindi vuol dire che il problema è un po' più complesso. Allora, stiamo a Roma, ma per un altro argomento. Hai sentito, Pierluigi, una storia degli ultimi giorni? Il signor Mago Bargnani, che una volta rescisso il contratto con Brooklyn non ha più trovato un ingaggio, ovviamente uno dei giocatori più forti che abbiamo. E allora è tornato in Italia e lavorerà con Marco Calvani, che saluto, e Cuzzolin, per prepararsi agli appuntamenti importanti di quest'estate. Buongiorno, coach. Buongiorno a voi. Ci spiega esattamente qual è la situazione? Niente, come già anticipato lei, Andrea è tornato in Italia dopo aver chiuso il rapporto con la franchigia NBA, dove era. E quindi niente, in questo momento non avendo squadra ha necessità e bisogno di allenarsi. Presidente Petrucci con Ettore Messina hanno deciso di contattarmi per chiedere la mia disponibilità per allenarlo, e lui sta facendo un percorso di lavoro con Francesco Cuzzolini, il preparatore, e un discorso tecnico con me. Assolutamente, quindi, individuale però. Assolutamente individuale per mille motivi di carattere assicurativo e altre cose che non sto qui a raccontarvi, però insomma sono facilmente intuibili, e quindi lui non aveva possibilità di essere tesserato con un altro club, anche perché quando lui è rientrato avrebbe avuto bisogno di decidere in un lampo, praticamente in poche ore, per avere la possibilità, ovviamente con club europei di assoluto livello di Eurolega. Non c'era una tempistica adeguata e quindi Andrea ha preferito rimanere così come era, insomma. Però sì, queste sono cose di carattere suo personale che io ho sentito per sentito dire, quindi eventualmente dovreste chiedere a lui per avere maggior chiarezza. Lo faremo, Pierluigi, lo faremo. Vogliamo parlare della Coppa Coraci del 92? Un momento, momento male, a Marcord, un bel ricordo quando sono uscito. Insomma, io all'epoca ero abbastanza ragazzo, perché rispetto ad adesso c'erano parecchi anni in meno, insomma quasi 20, oltre 20 anni in meno, e quindi bei ricordi, esperienza che ovviamente non va nel dimenticatoio, perché quando esci dal tunnel al Palazzo dello Sport dell'Euro, che è strapieno, ti senti come se ci avessi una pressa sulle spalle che ti spinge verso il basso per tutto quello che all'epoca chi era in tribuna e chi ha partecipato a quella finale qui a Roma, la prima partita di finale contro la Scavolini, si ricorderà, pareggiata, e poi andammo a Pesaro contro qualsiasi pronostico a vincerla anche lì. E così vi racconto anche un aneddoto: Santi Puglisi, che all'epoca era il manager della Scavolini, ovviamente aveva organizzato anche la cena del post vittoria che pensavano di fare loro. E la cena organizzata in un ristorante abbastanza conosciuto lì a Pesaro, che comincia per A, esattamente, e che adesso, che poi alla fine della partita ovviamente siamo andati noi a mangiarci quella cena con immensa grande goduria. Ma c'è pagato speranza Pugliese per il basket a Roma? Ce la siamo pagata, l'ha pagata la Ferruzzi, come tutto quanto di quegli anni, perché eravamo sotto l'egida ferruzziana dall'89 al 92. C'è una speranza per il basket a Roma? Scusate, un momento un po' così da TG3 del Lazio, però ma insomma, questa è una domanda da $1 milione, nel senso che credo che ad oggi bisogna essere grati al presidente Toti, che ha mantenuto in vita una realtà, per quanto ci siano state critiche negli ultimi anni per il fatto che lui ha rinunciato alla 1, ma insomma poi andare a fare conti in tasca agli altri siamo sempre tutti quanti bravi nel farlo quando le tasche non sono le nostre, sono degli altri. Quindi credo che l'unico ricordo che uno debba avere, che sono 15 anni con questo 16, che il presidente Toti mette soldi nella pallacanestro a Roma, e quindi speriamo che lui o chi per lui possa dare, come giustamente diceva lei al quesito, dare un futuro alla pallacanestro a Roma. Grazie coach. Bocca al lupo, buon lavoro, a presto. Grazie, a presto. Buona giornata. Beh, certo, tornasse Bargnani a Roma, come si è detto. Come si è arrivato con la Sei... al CEO? Come? Al CEO. Al CEO. Pesa, sì. Tu sei un frequentatore di Pesa, beh, sì. Sono stato a giocare. Sì, ma poi sai, lì da quelle parti, insomma, me lo ricordo. Coach della Stella Azzurra, che giocava con tipo bassa voce contro il Master, che era il derby di quegli anni. Master Valentino, era una pippa, sì, a livello giovanile. Vabbè, dai. Vabbè, ci sentiamo domani. Ce n'è uno che abbiamo perso di uno all'ultimo però mi sembrava brutto. Ti vedo addolorato. Adesso ti vedo, voce. Non ti preoccupare. Volevo parlare di questo. Adesso c'è il Falco e il Gabbiano. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Belli che sono, bravo De Luca, bella puntata anche oggi, abbiamo cominciato. Scusa, un pensiero al nuovo presidente. Certo. Presidente di Confindustria, un pensiero. Sì. Di una cosa, fai un discorso asciutto e vigoroso. Posso prepararmelo? No, ma fai un discorso asciutto e vigoroso, la migliore candidatura possibile. La migliore candidatura possibile, in bocca al lupo. In bocca al lupo, presidente, siamo tutti con lei, siamo qui a disposizione, sì, con la schiena dritta, ma a disposizione. Si scherza, ovviamente. Mari. Signori, alla prossima!